Passando dai documenti della storia ai simboli o ai miti letterari, si ha sempre l'impressione di una certa porosità dei documenti e anche di un loro relativo sgretolamento. E io mi consolo pensando che essi hanno tuttavia una loro storicità e che, letti appunto nella loro storicità, sono ugualmente degli oggetti storici come le istituzioni. Mi sarebbe piaciuto vedere come questo legame Germania-Italia arriva alla cultura tardo-ottocentesca, in particolare gli anni 1870-1880, di cui mi occuperò. Ma c'è adesso da qualche anno il bel libro di Gustavo Costa, cioè Le antichità germaniche nella cultura italiana da Machiavelli a Vico, che è un libro di grande erudizione e anche di grande finezza nella longue durée. Costa è anche lo studioso che ha scritto questo bel libro sulla leggenda dei secoli d'oro, quindi mi dispenso dal testimoniarli, legami tuttavia che appunto Costa mostra nella loro profondità, nella loro ricchezza, moltiplicità di letture. Partirei invece, anche come doveroso omaggio proprio agli amici di lingua tedesca che hanno pazienza di ascoltarmi in italiano, una delle testimonianze, a mio modo di vedere e anche nella mia ignoranza di letterato, più impressionanti su questa indissolubilità del legame Germania-Italia, che è appunto nelle lezioni sulla filosofia della storia hegeliane. Nella parte che riguarda appunto gli elementi descrittivi, in questa reciprocità del mito dell'impero che lega Germania e Italia, abbiamo, chiedo scusa se lo leggo in italiano e se andrò avanti soprattutto per flash, per citazioni, ecco, affermazioni di questo genere che mi pare orientino, ecco, almeno il senso della mia comunicazione. Teoricamente era indiscusso che l'imperatore romano fosse il capo della cristianità, che possedesse il dominium mundi, che, appartenendo tutti gli stati cristiani all'impero romano, tutti i principi dovessero essergli sottoposti secondo giustizia ed equità. Per quanto gli imperatori stessi non dubitassero di tale autorità, pure, come dicemmo nelle pagine precedenti, essi erano troppo intelligenti per farla valere in realtà. Tuttavia, la vuota dignità di imperatore romano aveva abbastanza valore ai loro occhi per indurli a impegnare tutte le loro forze per acquistarla e mantenerla in Italia. Come gli imperatori tedeschi volevano realizzare il loro titolo in Italia, così l'Italia aveva, per contro, il suo centro politico in Germania. I due paesi erano vincolati in tal modo l'uno all'altro e nessuno di essi poteva consolidare se stesso. Segue poi un elogio appunto di Federico Barbarossa come esempio emblematico di questa reciproca e duplice, nello stesso tempo, legame e impotenza. Ecco, mi pare, per quel poco che posso capire, appunto, che per quanto splendida, ecco, con una conclusione ancora hegeliana, appaia la storia degli Hohenstaufen, tuttavia essa non è nel complesso che la grande tragedia del Medioevo. Ecco, appunto in questo che fin da queste pagine Hegel pone come indissolubile legame tra Germania e Italia, appunto nel loro reciproco esigere sotto il signacolo della totalità dell'impero, ma anche nella loro appunto impotenza a realizzarsi. Di questo elemento simbolico in particolare vorrei seguire lo sviluppo in questa comunicazione. Cioè il mito, insomma, della indissolubilità di questo reciproco esigersi e in ciò della sua, come dire, tragica irrealizzabilità. In questo senso ho cercato di prendere a testimonio due due letterati e due uomini di cultura importanti come Giosuè Carducci, che è stato già così ampiamente evocato nelle relazioni del professor Tabacco e del professor Cardini, e di Arturo Graf, che già biograficamente rappresenta quanto di più emblematico si possa dare di congiunzione tra cultura tedesca e cultura italiana, essendo figlio di un tedesco e di un'italiana, nato ad Atene ma soggiornato in Romania e poi a Napoli, e infine titolare della cattedra di letterature comparate a Torino e fondatore del Giornale Storico. Quindi una parabola veramente emblematica da questo punto di vista. Direi che, svolta esaurientemente nelle lezioni e relazioni che mi hanno preceduto la storiografia del secolo XIX, mi sono rifugiato, ecco, dalla specola letteraria nella parte finale del secolo, cominciando da una data che è emblematica e già stata ricordata dal professor Tabacco, cioè nelle lezioni carducciane, poi divennero un volume, del 1868-71, dello svolgimento della letteratura nazionale. Qui per brevità distinguerò tre momenti carducciani: questo qui iniziale degli anni 60, fine anni 60, che è un momento fortemente marcato dal mito appunto dell'unità nazionale, dal mito risorgimentale, con una emblematicità forte naturalmente del mito di Legnano. Poi un periodo centrale in cui molto conta il progressivo lavoro di Carducci intorno a Heine, e infine la parte finale, che a mio modo di vedere è la più interessante perché anche forse la meno studiata, cioè il Carducci che rilegge Muratori, che ne dà anzi una prefazione molto ricca, e che tenta un discorso, come dire, di congiunzione tra Medioevo aleramico e Ottocento sabaudo, proprio attraverso questo ripercorrere la storia aleramica e la storia muratoriana. Questo è già in sintesi quello che volevo dire. Lo condirò di qualche citazione, perché la letteratura non è soltanto spessore ma anche sapore, e quindi fa piacere ogni tanto trovare, insomma. Certo, questi miti erano divulgati proprio perché erano divulgabili, insomma, perché avevano anche una loro presa e un loro sapore. E proprio l'inizio di questo svolgimento della letteratura nazionale, nel quale il Carducci pone i tre elementi fondamentali che hanno determinato la letteratura nazionale, cioè l'elemento ecclesiastico, l'elemento cavalleresco, elemento di importazione dunque estraneo, e poi l'elemento nazionale come prodotto finale, ecco, distinguendo nella prima fase l'elemento ecclesiastico, viene a contrapporre proprio il destino italiano a quello tedesco. E c'è una pagina molto bella che leggo solo nella parte finale. Ora la Chiesa purificata, vale a dire risanata e rinsanguata, con quel suo romano organamento rafforzandosi nei secoli, era naturale che non volesse sopra di sé padroni. Non era ella successa nelle tradizioni unitarie all'antico impero, avendo suoi prefetti i vescovi per tutto l'Occidente? Non era ella che aveva creato l'impero nuovo? Quindi la ruina della casa salica e del dominio tedesco. Gregorio VII, toscano e di popolo, apparisce nella storia come un muro ciclopico delle città etrusche presso cui era nato. Nell'urto contro di lui le labarde tedesche volano in ischegge. E come i promontori della sua nativa Maremma, l'onda del Mediterraneo, schiuma imponente ai suoi piedi la rabbia dell'imperator salico. Ecco, questo era il Carducci dei primi anni, insomma. Perfino la chiesa romana, come depositaria appunto dell'imperium, è vero, e soprattutto in questa congiunzione felice in Gregorio di uomo di popolo e toscano, era veramente il rampart, il baluardo contro cui volava in schegge appunto il dominio tedesco. Ecco, è questo un po' il sapore del primo Carducci, che pone la lunga durata, la continuità di quello che egli chiama la virtù dell'elemento romano. Ecco, questa fortissima insistenza sulla continuità appunto dell'elemento romano. A questo riguardo io direi che si potrebbe ancora leggere, sempre in questa rassegna pur rapida dello svolgimento della letteratura nazionale, il legame che egli stabilisce tra il principio popolare come forza dell'elemento romano, e che egli vede esemplato nella letteratura dalla rinascita della novella, con la congiunzione appunto nella battaglia di Benevento della eredità della battaglia di Legnano. La battaglia di Benevento compiva quella di Legnano, e qui appunto Manfredi e così via, cadeva ferita appunto con Manfredi la parte imperiale con le sue tradizioni necessariamente germaniche e feudali. Parallelo a questo momento di riflessione sullo svolgimento della letteratura nazionale è nella poesia, sono nella poesia i lavori di quegli anni 68-71, a me pare che di tutti il più emblematico sia Plebiscito, laddove appunto, proprio per questo tentativo di legame che sto cercando di fare per il Carducci della terza età, tra, come dire, momento medievale e momento ottocentesco, è il rapporto tra Arduino e Vittorio Emanuele II e naturalmente tra il nuovo e antico Ottone, cioè Ottone e Francesco Giuseppe. Egli, a proposito del plebiscito, che è naturalmente il momento in cui Emilia e Toscana si congiungono, siamo l'Itala famiglia cui Roma il segno die, ecco questa continuità dell'elemento romano, Legnano e Gavinana sola una patria or è, leva o stranier le tende il regno tuo cessò, e soprattutto levato in pie Arduino incalza il nuovo Otton. Ecco questo tentativo appunto di congiungere, in senso evidentemente fortemente anti-germanico, questi due miti, e recuperando una continuità, come dire, Arduino Vittorio Emanuele. Questo mi pare il primo punto. Il secondo momento, andando qui molto a tesi e molto corsivamente come mi ero proposto, è quello nel quale, diciamo così, lungo gli anni 70 fino al 1883, il Carducci invece traduce, riflette, pensa, imita e riscrive la poesia di Heine. Qui mi pare appunto che siamo nei momenti più interessanti, direi, del pensiero carducciano, soprattutto perché direi il Carducci, come dire, democratico, il Carducci rivoluzionario, trova indubbiamente un modello letterario estremamente significativo e che egli celebra anche con pagine corrosive. Basti pensare a quel sonetto dedicato appunto a un commentatore hainiano che aveva denigrato le sue traduzioni, oppure anche al Carducci che traduce e commenta i Reise Bilder, e in particolare all'elogio che di questo Tirolo meridionale è fatto, cioè di qui, di queste terre, nel celebre esempio appunto della tessitrice, è fatto come luogo di mediazione di cultura tra Germania e Italia, come luogo dove insieme appaiono il sole e il sole e il sorriso sono questi, direi, grandi topoi che erano già naturalmente in Goethe e che ritornano qui nella lettura carducciana, e le critiche all'alto medioevo, medioevo un po' di ricami e pasticcini, come gli dice in un altro luogo, la critica al medioevo esangue di Giacosa, quando egli vede le rassomiglianze tra il romanticismo tedesco e la poesia fiorentina di Parte Bianca. Anche questo è molto interessante, ha delle pagine corrosive veramente contro Giacosa. Passo merita di essere ricordato, non so perché, anzi so bene perché, ogni volta che mi accade parlare o sentir parlare del signor Giacosa mi torna in mente la confettureria Giacosa in Firenze al tempo della capitale, eccetera, E il signor Giacosa, letterato, fa la professione di confettare in poesia un medioevo accademico alla Marchangy, come usava in Francia innanzi il 1820. È un'osservazione inutile, perché c'è anche tutto quell'altro medioevo, appunto, ben allineato anche in Piemonte, di questo di merletti, castelle, dame, eccetera, poi dopo tu ci parlerai molto meglio, che Carducci naturalmente oppugna severamente. Qual è il suo ideale per restare a queste pagine ainiane? È quello che egli rappresenta come congiunzione tra lo spirito tedesco e l'elemento siracusano. Ecco, qui richiamo un attimo a Sicilia, che curiosamente ci seguirà nella parte finale di questa comunicazione. Certo, dice appunto il Carducci, occorrerebbe immaginare il soave odor di timo dell'idillio siracusano mescolarsi al profumo indistinto del fior di passione della leggenda settentrionale, il bassorilievo greco confondersi alle forme eroiche d'un'antica immagine dei Nibelunghi, il mosaico di Pompei sfumare coi suoi leggiadri colori negli acuti contorni di Alberto Durero, queste sono tutte le traduzioni carducciane, si intende. Ecco, la forma della poesia di Heine, ovella è più tranquilla, più serena, più idealmente sensibile, tale nella rappresentazione della filatrice al confine d'Italia, cioè qui nel Tirolo meridionale, ella filava e rideva appunto il sole e il sorriso. Ma direi di tener conto per un attimo, a parte questi stereotipi, ecco, di questo richiamo alla Sicilia che ci condurrà poi verso la fine della comunicazione. Un altro punto, ecco, per andare proprio molto rapidamente al terzo momento, a me pare quello che debba essere più sottolineato, è quello che è il recupero della tradizione aleramica. Se vogliamo tuttavia restare al secondo momento e rivederlo nella poesia, ecco, direi che i testi più importanti sono le imitazioni da Heine, cioè appunto i tessitori, l'imperatore della Cina, ma che non leggo qui per brevità, per non tediare anche gli amici e colleghi di lingua tedesca, anche perché l'italiano carducciano è un italiano di un certo impegno. Ma mi pare di più interessante ritornare al Carducci che reinterpreta, ecco, il momento aleramico. E qui, proprio sulla scorta di questo tentativo di congiunzione del mito dell'Italia, della Germania, di Siracusa, della grecità e dei Nibelunghi, che era fatto lavorando sulla poesia di Heine, è molto interessante che il Carducci designi la tradizione aleramica, in particolare lo stesso protagonista, come di, egli dice appunto, germano di nascita e lombardo di formazione, germano di nascita e lombardo di formazione. Ecco, questo mi pare che sia un elemento importante, perché viene messo in bocca allo stesso protagonista quando si presenta all'imperatore. Egli così si definisce quando viene presentato ad Ottone: tedesco di sangue, rispose Aleramo, ma di nazione e di educazione lombardo. E qui c'è tutto un tentativo di rilettura della leggenda aleramica in un senso appunto di continuità, di congiunzione. Per esempio, ecco, per riprendere la questione posta stamani a proposito di Arduino, viene letto come antesignano della resistenza ai saraceni, viene letto come il Carlo Martello di queste contrade contro i saraceni, e soprattutto mi pare che la continuità arriva naturalmente fino a Bonifacio e quindi a quella quarta crociata, che viene rappresentata come anche un altro dei grandi momenti di unità nazionale, di emblematicità, ecco, del riconoscimento dei destini italici. Tuttavia, in questa prima parte, siccome il Carducci è ancora il Carducci che ci ha descritto stamani il professor Cardini, questa rivalutazione non è piena, perché sarebbe evidentemente un pochettino pericoloso, e difatti tutta questa rilettura e riproposizione degli aleramici si conclude nella morte. Era il fato degli aleramici salire i luminosi fastigi della potenza e della gloria solo per ruinare nella morte. Ecco, quindi c'è alla fine, sono proprio le ultimissime pagine di questo saggio sugli aleramici, un tentativo appunto, ecco, un fatto insomma che non pienamente premia queste ipotesi. D'altra parte occorre dire che nel saggio successivo di qualche anno sulla Quarta Crociata, la poesia e l'Italia nella Quarta Crociata, e che è il proseguimento diretto dal punto di vista anche del materiale erudito del materiale sugli aleramici, la situazione cambia già. Siamo del resto nel 1889, il discorso è letto in presenza della regina e qui comincia ad emergere appunto questo tentativo di congiungere la storia aleramica di Bonifacio, eccetera, quella che sarà poi la dinastia Sabauda. C'è un bellissimo affresco dell'estate del 1201 e del 1202, questa radunarsi delle insegne a Venezia sotto appunto il comando, che a questo punto diventa non soltanto del Monferrato ma di tutta l'Italia, e in particolare nella parte finale l'elogio del condottiero diventa l'elogio del primato italiano nel Mediterraneo. Sono anche stilemi che fanno riflettere alla lunga durata di queste formule anche 50 anni dopo. Quella fu la sagra, il trionfo del secondo primato italiano nel Mediterraneo. Ecco, il ritorno del Mare Nostrum, e questo riproporre già i primi segni, le prime fila di una congiunzione, appunto, riannodamento intorno alla dinastia Sabauda. Destino che si compie nella lettura carducciana, appunto, con queste pagine finali, del resto molto belle, anche dal punto di vista letterario e storiografico, nel saggio sulla riedizione degli storici dal 500 al 1500 ordinata dal Muratori, e che il Carducci ripubblica con prefazione nel 1900 alla città di Castello. Anch'essa è dedicata alla regina Margherita, fra la storia antica d'Italia e la novissima stella ferma e candida propiziatrice, cioè sì, nella dedica c'è questo legame tra la storia antica d'Italia e quella nuova. Ora, a me pare importante vedere come in questa lettura carducciana degli storici muratoriani non solo vengono riproposti tutti quelli che noi abbiamo in questi giorni ascoltato essere i capisaldi di queste riletture delle antichità germaniche, in particolare c'è un grande elogio del Sigonio, ma è molto interessante che anche il Carducci, in questo ripercorrere la storiografia, dia ad essa un ruolo diverso dalla letteratura, cioè dire che mentre in effetti, come egli ricorda, si celebrava la guerra di indipendenza, questo è il suo molto preciso, contro gli Hohenstaufen, tuttavia non ci fosse alcuna storiografia coeva al riguardo, almeno dal catalogo che egli ripubblica degli storici muratoriani. Poi altrove si lamenta che mai ancora nei documenti coevi ci sia reminiscenza della Lega Lombarda, per terminare appunto con un grande elogio naturalmente del Sismondi, cioè attribuendo a partire da questo momento, con una lettura anche storiografica molto precisa, il rinascere del mito del Medioevo in questo, a partire da questo momento, nella storia appunto delle repubbliche italiane, che egli vede poi segue con molto puntiglio inquadrato nel Foscolo, nel Manzoni e così via, e che idealmente chiude e a me pare estremamente significativo come il Carducci cerchi di legare appunto il momento, supponiamo la lirica e la quarta crociata, il momento della storia aleramica e il momento della nuova monarchia sabauda che riprende queste tradizioni senza rinnegare almeno troppo la propria storia, chiudendo questa ideale riscoperta del Medioevo con una nota che gli attribuisce al professor Luigi Rava e naturalmente ringraziando insieme Michele Barbi, e cioè quello che egli chiama il ritorno del patriottismo verso il Medioevo, che data Cicero Pro Domo Sua proprio nel momento in cui il grande fervore rivoluzionario riporta, è vero, l'attenzione sulle nazioni, e cita appunto questa sulla pace, orazione per ordine del governo cisalpino detta nelle feste solenni il 10 floreale dal cittadino Compagnoni, Milano, nella stamperia di San Zeno, che appunto è documento utilizzato dal Carducci come documento che richiama appunto questo mito di Legnano come mito della liberazione e della nuova liberazione. E con questo documento, idealmente salvando il proprio passato e il proprio presente, Carducci chiude questa storia della storiografia della rilettura del Medioevo. Ecco, se questa è, direi, la parabola proprio molto sommariamente per position de thèse carducciana nei 20 anni che vanno fino appunto al 1900, ma con dei fuochi forti, diciamo così, intorno al 1868-71 e poi in tutti gli anni 70-80, mi pare che sia importante, non dico contrapporre, ma certo giustapporre la lettura che del Medioevo germanico italiano negli stessi anni compie Graf. Da questo punto di vista, il punto di partenza può essere comune e può essere quello appunto di una, non so fino a quanto conosciuto da Graf, che però leggeva tranquillamente il tedesco e alla cultura germanica ha dedicato il suo libro più interessante, più nuovo, più bello, cioè Il mito di Prometeo, vale a dire quel libro che apparentemente assume una tematica carducciana, cioè la Roma nella memoria e nelle immaginazioni del Medioevo, ma che in realtà molto si distanzia dalla prospettiva carducciana. Non è la continuità dell'elemento romano lungo le sorti della Chiesa e dell'impero fino alla civiltà comunale, ma per l'appunto proprio nei capitoli finali che riguardano l'impero nel Medioevo assume una prospettiva, oserei dire, hegeliana, cioè dell'impero come signum vacuum, ma che proprio attraverso la sua forza simbolica continua a informare, è vero, le immagini di rappresentazione e di identità dei popoli e i punti di riferimento della civiltà. Aggiunge a quella prospettiva hegeliana che abbiamo letto un elemento particolarmente importante, consentitemi queste rapidissime citazioni dell'inizio del capitolo 21 e penultimo. Roma non è più che una ingente ruina, appunto nel Medioevo. I popoli soggetti un tempo al suo dominio hanno fondato nuovi stati, nuove monarchie e vivono indipendenti. Della grande unità politica, procacciata a prezzo di tante fatiche e di tanto sangue, non resta vestigio. Non che la religione, la stessa civiltà di Roma è perduta. Eppure l'impero, quell'impero sotto cui Roma toccò il sommo della gloria e della potenza, continua a sussistere, quasi che la sua esistenza sia, per un arcano decreto della provvidenza, fatto indipendente dal tempo e dallo spazio e superiore a tutte le vicissitudini della storia. Ecco, è interessante questa collocazione dell'impero appunto fuori del tempo e dello spazio, o ancor meglio, quando egli commenta la sovranità di Carlo Magno, una collocazione che egli vede, come dire, mediatrice tra le disproporzioni della storia, tra la pochezza reale dell'attività possibile di questo impero e il suo grande appello simbolico. Fa meraviglia la sproporzione che passa sovente allora tra il diritto proclamato e generalmente riconosciuto in teorica e il potere reale di certi imperatori senza terra, senza denari e senza armi, a cui la stessa Roma, la metropoli nominale dell'impero, chiude in faccia sdegnosamente le porte. E segue un'allegazione bellissima di esempi e di cronache che direi fanno proprio il contrasto toto cielo alla lettura, come dire, sanguigna e potente di Roma che fa Carducci. Per concludere, gli è che una forza poderosissima, la forza delle credenze, lo sorregge e lo tutela, cioè l'idea dell'impero è tutelata non dalle armi ma dalla forza delle credenze che lo sorreggono e appunto lo tutelano, cioè un medioevo altamente simbolico, un medioevo fuori dello spazio e del tempo, come garanzia appunto di queste, perciò stesso un medioevo internazionale, non nazionalistico, eccetera, che sorreggono appunto questa lettura di Graf. Un germinatore di credenze, è vero, e di poesia, come nelle considerazioni sulla storia letteraria, i suoi metodi e alle sue appartenenze, sono la prolusione con altri due saggi tenuta da Graf alla chiamata per la cattedra di letteratura comparata a Torino, al punto che questo germinale, ecco, per dirla con termini forse sarebbe piaciuti di più al Carducci, delle credenze e dei simboli che sorreggono l'idea di impero, arriva fino addirittura a esaltare, diciamo così, la potenza dell'incolta e rozza Chanson de Roland contro la creazione di una esangue, seppur elegantissimo, di un secolo ringentilito anche troppo, cioè l'Orlando Furioso, che non esita, con una terminologia che poi Graf abbandonerà, è vero, come l'ultimo grado di corrompimento dell'epica. Cioè c'è un tale rovesciamento di posizioni per cui l'emblema stesso del Cinquecento, negli anni in cui Regnier e tutti gli altri padri fondatori del giornale storico difendevano, e come, pubblicando i grandi documenti che sappiamo, questo rinascimento cortese, ecco, la Chanson de Roland, opposta nella sua germinale potenza, appunto, mitopoietica, al decadimento e corrompimento dell'epica che è l'Orlando Furioso, per non parlare della Italia liberata dai goti del Trissino, che sembra appunto un angusto e falso principio di poetica scolastica applicato invece a una grandissima epica. Ecco, questa rilettura appunto germinatrice di credenze appunto e di poesia che è il Medioevo, devo dire tra l'altro con certe ricorrenze storiche, la stessa cosa capita nell'antologia della poesia germanica procurata da Borges. Il filo con cui egli collega questi miti così diversi mi pare proprio sia questa idea di grande crogiolo germinatore di mitologie che appunto è nel Medioevo, così come fuori dallo spazio e dal tempo, come lo legge Graf. Ma più ancora mi pare che Graf sia poi produttore in proprio di questi tentativi di uscita dallo spazio e dal tempo. Se noi percorriamo il suo voluminoso ma interessantissimo libro di poesie, vediamo che quelle che sono dedicate al Medioevo sono sotto questo segnale. E in particolare ne ricorderei due, cioè la leggenda di Eccarto, che è una leggenda di uscita dal tempo, è vero, nel senso che appunto questo monaco felice pensa di vivere è rappresentato come vivere nello spazio di un'ora quello che ha vissuto in 100 anni, e l'altro appunto il sonno di Carlo Magno, che è molto interessante per molti punti di vista, anche qui recuperando una vecchia leggenda, ed è anche molto interessante perché appunto alla fine il fondatore di imperi è colui che chiede appunto di uscire dal tempo, allo stesso modo con cui un altro eroe nel quale il Carducci si era riconosciuto, cioè Martin Lutero, chiede di uscire dal tempo. il Martin Lutero di Carducci, non è in questo, almeno nel proprio finale, molto distante dal Carlo Magno di Graf. Tuttavia, se questa uscita dallo spazio e dal tempo, questa specie di medioevo non nazionale, questo imperium germinatore di credenze, hanno un punto di convergenza, esso è ancora goetheanamente il luogo di incontro delle tre civiltà, naturalmente il luogo di incontro per Graf molto autobiografico, ma però importante per questa cultura dell'Ottocento, cioè la Sicilia, dove si incontrano per l'appunto la tradizione germanica, la tradizione latina e la tradizione greca. Ora, naturalmente, il libro di miti, leggende e superstizioni del Medioevo è noto a tutti, è stato recentemente riportato e quindi forse non è il caso di ricordarlo qui. Tuttavia, vorrei dire che i due saggi che più sono interessanti, che vorrei forse ricordare rapidamente, sono proprio quelli finali nella riproposta moderna, cioè Artù nell'Etna e il Monte della Calamita, o ancora una volta Mongibello, nei quali si ritrovano, mi pare esemplarmente nel caso della Monte della Calamita, il racconto che è di origine tedesca, la lingua di diffusione che è quella latina e la rassomiglianza del Graf comparatista, perché questo Monte della Calamita, dove tutti i viaggiatori sono chiamati, è naturalmente così simile al mito di Sinbad di Mille e una Notte, cioè il confluire verso la Sicilia anche di quella tradizione dell'Oriente che anche la Germania hegeliana aveva posto come una possibile alternativa. C'è una nota molto interessante di Hegel che dice: la Germania, potendo scegliere tra l'Oriente e l'Italia, ha scelto l'Italia. Ma se l'Imperium avesse, come dire, scelto l'Oriente, cioè un tentativo di riunificazione, è vero, con Bisanzio. Ora, è molto interessante che proprio questi due miti, nel quale confluiscono anche quello di Ulisse, siano congiunti attraverso questa straordinaria rilettura, appunto, che è il Monte della Calamita, nei tre elementi, e cioè quello tedesco, quella della diffusione latina, il mito dell'Oriente di Mille e una Notte, appunto nel Mongibello, dove anche termina l'altra saga, cioè quella del re Artù. Qui sarebbe molto interessante, è una parte forse che appunto è stata dimenticata in riproposizioni recenti del mito, e direi che l'ultima riga proprio di questo saggio molto bello di Graf sul Monte della Calamita è un richiamo a quella, a Goethe, dice, quella tradizione, quella fiaba che Goethe ricordava essergli stata letta da piccolo, ma naturalmente è il Goethe fanciullo, è il Goethe fanciullo del Wilhelm Meisters Lehrjahre, dove appunto ancora una volta l'elemento che mette in moto il viaggio, la conversione, il teatro, è vero, del Wilhelm Meister è il canto dell'arpista e della giovane Mignon, che ancora una volta è un canto che richiama alla patria appunto del sole dei limoni, e cioè conosci tu la terra dove fioriscono i limoni. Ecco, a me pare che queste due letture, pur così sommariamente e rapidamente proposte, perché vorrei che potessimo più agevolmente conversare nel dibattito, ci richiamino sostanzialmente a una tradizione che potrebbe essere riletta con molto profitto a partire dalla specola di oggi. Vale a dire, io ho l'impressione che non già l'ipotesi di Graf abbia vinto nella nostra storiografia, ma molto più probabilmente per molti lunghi anni quella carducciana, con un sostanziale impoverimento di questa grande Romagna, di questa grande tradizione appunto di imperium come elemento germinatore simbolico, anche se, occorre dire, questo è a patto di una perdita, come dire, sostanziale di identità per le nazionalità, una fuoriuscita, insomma, da un alveo più rassicurante. Un'ultima testimonianza che mi ha molto impressionato, per chiudere un po' ciclicamente questo, è che proprio il mito delle antichità germaniche, da Machiavelli a Vico di Gustavo Costa abbia questo frontespizio, e cioè sia dedicato agli Stati Uniti d'Europa. Mi pare una, così, una straordinaria, seppure ultimissima, reviviscenza di mitologie di fronte alle quali, anche quando si studia il documento storico, è inevitabile confrontarsi. Vielen Dank. Herr Ossola hat uns vorwiegend über die Jahre, die 70er und 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts gesprochen. Er hat mit Carducci begonnen, dann Graf behandelt, aber eigentlich eingeleitet und aufgehört mit einem vor kurzem erschienenen Buch von Gustavo Costa über die deutschen oder die germanischen Altertümer von Machiavell bis Vico, das den Vereinigten Staaten von Europa gewidmet ist. Er will damit sagen, dass die deutsche Vergangenheit, die germanische Vergangenheit für Italien, unabhängig von dem, was heute früh besprochen worden ist, auch einen eigenen Wert hat. Bei Giosuè Carducci ist eine Entwicklung vorhanden von einem verhältnismäßig ungebrochenen Befolgen dessen, was wir heute früh gehört haben. Also um 1870 schreibt er ein Gedicht, in dem Arduin und Viktor Emanuel II. Praktisch gleichgesetzt werden. Sie erinnern sich an die Diskussion von heute früh, an Herrn Bordone. Und in dem dann auch Otto der Große praktisch gleichgesetzt wird mit Franz Josef von dem bösen Feind um 1870. Später in der Beschäftigung mit Heine wird Carducci etwas milder gegenüber den Tedeschi, und schließlich in der Zeit, als er die Einleitung zu der Neuausgabe des Muratori schreibt und bei dieser Gelegenheit viel Geschichte, das heißt Geschichtsquellen des Mittelalters gelesen hat, spricht er davon, dass der Patriotismus, die Vaterlandsliebe, endlich zum Mittelalter zurückkehre und sich also im Mittelalter identifizieren kann. Das war für Arturo Graf, der für das italienische Risorgimento keine solche wichtige Rolle spielt wie Carducci. Er war in Athen geboren als Sohn eines deutschen Vaters, einer italienischen Mutter, in Rumänien aufgewachsen und schließlich dann Professor für vergleichende Literaturgeschichte in Turin. Für den war das kein solches Problem. In seinem auch bei uns eigentlich viel gelesenen Buch Rom, Roma nella memoria e nelle immaginazioni del Medioevo, Übersetzung gibt es meines Wissens nicht, also Rom im Gedächtnis und den Vorstellungen des Mittelalters, da schwärmt er von der Zeitlosigkeit des mittelalterlichen Reiches, bedauert die Diskrepanz zwischen der Idee dieses Reiches, eben des zeitlosen Reiches, und der Wirklichkeit, die oft so kümmerlich war, weil die Kaiser zu wenig Geld und zu wenig Soldaten hatten, von dem Reich, welches garantiert war, nicht so sehr durch wirkliche Politik oder Macht, sondern durch die Forza delle Credenze, durch die Macht des Glaubens, das heißt der Leute, die an das Reich glaubten. Herr Ossola hat dann von weiteren Werken von Arturo Graf gesprochen, ich will das jetzt nicht wiederholen. Zwei davon sind interessant, weil sie beide das gleiche Thema in verschiedener Form behandeln, nämlich das Überwinden der Zeit durch jemanden, der schläft und meint, er sei nach wenigen Stunden aufgewacht, in Wirklichkeit aber nach 100 Jahren aufgewacht ist und sich in einer völlig veränderten Umgebung wiederfindet. Ein Gegenstand, der bei uns ja auch kürzlich erst zu einer wissenschaftlichen Abhandlung geführt hat. Am Schluss sprach Herr Ossola über Sizilien bei Graf. Sizilien, der Ort, wo lateinische, germanische und griechische Traditionen sich treffen und welches für zwei Werke von Graf eben dieses zeigt, wobei bei dem zweiten sogar noch 1001 Nacht als drittes Element dazukommt, das Orientalische aus der vorn romanischen Zeit von Sizilien. Mehr kann ich, ohne die Zitate zu wiederholen, als Nicht-Literaturmensch nicht vorbringen. Und jetzt möchte ich eigentlich bitten, nicht zu fragen, sondern Frau Santini, eccola, sarà una discussione comune alle due relazioni alla fine dell'intervento della professoressa Lerida Santini.